Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Poteva Mebius non andare in onda da una fiera mondiale, soprattutto sull'agricoltura, quest'anno, e sull'alimentazione, ma certo che no. Non ci siamo lasciati mancare questa opportunità. Ciao Chiara, ciao Federico, buon pomeriggio a tutti, anche buon a chi ci sta ascoltando qua da Expo, dal nostro padiglione Cibus Italia. Edizione speciale di un'ora. Ah, certamente, in questa puntata speciale ricchissima. Partiamo con, abbiamo scelto dei temi i più vari possibile. Allora, partiamo sono da scientifici. Certo, come sempre. Allora, partiamo da Zio Paperone. Ecco. Lo analizzeremo in termini matematici, scientifici e architettonici. E architettonici. Poi parleremo di droni, un po' in generale e in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di questi nuovi strumenti in agricoltura. E poi ancora un po' di cibo. Parleremo di cioccolato e non solo, di tecnologia e architettura del cibo. Vediamo che cosa si può fare. E infine asparagi da Marte, che vi può sembrare un'altra cosa strana, ma invece parleremo di un libro che ci racconta le missioni spaziali, quelle già fatte e quelle che dovremo fare proiettandoci nel futuro. Allora possiamo bene cominciare. Iniziamo con Zio Paperone. Esprima un desiderio, si esprima. Sì, desidero che io, la mia famiglia e il mio deposito tornino a Paperopoli in questo istante. Niente al paragone di questo. Avete mai visto uno spettacolo più luminoso? E qui Zio Paperone si lancia nella sua piscina fatta di monete. Avete mai visto uno spettacolo così luminoso? Bene, iniziamo a salutare i nostri ospiti. Allora, intanto, parliamo di Zio Paperone perché al museo Wow Spazio Fumetto, che è il museo del fumetto qui a Milano, c'è una mostra, una bellissima mostra, che si chiama Zio Paperone e i segreti del deposito. E da lì c'è in collegamento Luca Bertuzzi, il nostro fumettologo. Ciao Luca e ben ritrovato. Ciao, ben trovati anche voi. Ciao. Adesso Luca, ti diamo parola, però prima salutiamo anche gli ospiti che abbiamo qui in studio. Allora. Luca Sgambi, benvenuto e ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Lei è professore della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano e poi vedremo in che modo il Politecnico c'entra con il deposito di Zio Paperone. E poi Claudio Citrini, professore ordinario di analisi matematica, niente poco di meno che, sempre del Politecnico di Milano, ed è contemporaneo di Zio Paperone, forse non dovremmo dire. Certo, vero? Siamo nati tutti e due nel dicembre del 1947, ahimè, per me. Data in cui Paperone incomincia a essere pubblicato. Esatto, la prima pubblicazione di Zio Paperone, in cui appare Zio Paperone in Italia, è proprio del dicembre del 47. È altrettanto ricco? No, sono uno statale. Non mi tuffo nel denaro. Però allora, Federico, partiamo con Luca, facendoci come sempre, raccontare un po' la carta d'identità. Chi è Zio Paperone, Luca? E perché questa mostra sul deposito? Allora, diciamo che Zio Paperone, come ricordava un secondo fa il professor Citrini, è nato appunto nel dicembre 47 in una storia natalizia di Paperino, che si chiama Natale di Paperino su Monte Orso. A crearlo è stato Carl Barth, che è il creatore non solo di Paperone, ma anche di Archimede, di Amelia, dei Bassotti, ovviamente del deposito, di tre quarti degli abitanti di Paperopoli praticamente. E nelle sue prime avventure Paperone, insomma, era un po' più avaro di come sarebbe poi diventato in seguito, perché anche il suo nome originale, Scrooge, è ispirato all'Ebenezer Scrooge del Canto di Natale di Dickens. Poi naturalmente Barks ne ha sviluppato, insieme anche con tanti altri autori da tutto il mondo, compresi tanti disegnatori e sceneggiatori italiani, la personalità, e Paperone è diventato un personaggio molto più complesso e sfaccettato ed è diventato uno anche dei personaggi più amati in assoluto, quindi è partito come comprimario di una storia sola, quella appunto il Natale di Paperino, per diventare poi un protagonista a tutti gli effetti, forse perché è quello che poi che tutti noi un po' vorremmo essere, forse. Un miliardario, avventuriero, che ha vissuto in tutte le parti del mondo, che è pieno di risorse, insomma, un po' forse lo invidiamo e un po' lo ammiriamo, nonostante sia un po' l'incarnazione anche del nostro superiore, che magari non è molto gentile nei nostri confronti, come fa a volte con Paperino quando lo inseguo con un randello in mano perché gli ha rovinato un affare. Ecco, sì, esatto. Un personaggio un po' particolare. E la mostra non racconta naturalmente solo di Paperone, si chiama Zio Paperone, i segreti del deposito, proprio perché parla anche del deposito di Paperone. Il deposito è quasi centro, famoso, no? Quanto lui, diciamo. Beh, insomma, non c'è Paperone senza deposito. Allora, vogliamo arrivare a questo. Come è fatto? Ecco, allora, con tutta la serietà di un Politecnico, c'è stato un anno di lavoro, Luca Sgambi, sulla ingegneria strutturale di questo deposito, cioè voi vi siete domandati, ma questo oggetto sta in piedi, sta in esiste, piedi o non sta in piedi? Anche perché a un certo momento la Walt Disney, in una sua attenzione a tutto ciò che sta intorno alle storie, ha fatto vedere, insomma, ha fatto circolare una mappa abbastanza dettagliata del deposito, e quindi su quella si poteva vedere come stavano effettivamente le cose. È andata così? Sì, diciamo quasi. l'idea iniziale, diciamo, è venuta al mio collega Ferdinando Zanzottera, che insegna storia dell'architettura sempre al Politecnico di Milano, docente a contratto come me. Anche lui è appassionato di fumetti, già da anni e anni mi continuava a propormi questa domanda, se stava in piedi il deposito. È una storia lunga. Sì, almeno 4-5 anni, perché abbiamo collaborato su tanti corsi. E preso un po' lo sfinimento, un paio di anni fa gli ho detto: senti, facciamolo così. Te lo faccio al quinto anno di architettura delle costruzioni, dove io tengo il laboratorio, così in aula ti facciamo il progetto del deposito di Zio Paperone. Certo, voi avete proprio mesi, no? In qualche modo studiato appunto quanto era grande, che cosa che quello no, quello no, perché quello c'era, no? Esatto, noi ci siamo sempre sul Ferdinando Zanzottera, che è molto serio dal punto di vista filologico e storico e tutto, ci ha procurato delle piante, delle planimetrie, delle sezioni disegnate da Don Rosa, che è forse l'ultimo grande disegnatore americano, ha lavorato con Barks. E piante che erano state pubblicate agli inizi degli anni 2000, che contenevano parecchi errori, perché chiaramente il fumetto non è la realtà. No, certo, sarebbe quindi noioso. Noiosissimo. C'erano uffici senza finestre, c'erano botole che apparivano, scomparivano, e poi mancava la struttura, cosa che per me era fondamentale. Beh, certo, di cosa fosse fatto anche, dovevate studiarlo. Insomma. Chiaramente, è stato un anno bellissimo dal punto di vista didattico, sia per me che per gli studenti. Perché abbiamo affrontato veramente un problema che credo difficile, che si è mostrato originale, poi soprattutto, che a me ha fatto tantissimo piacere, che non era mai stato affrontato. E cosa è venuto fuori, che siamo curiosissimi? Sono venute fuori che è fattibile, è realizzabile, si può costruire. Siamo riusciti a realizzarlo, realizzarlo. No. Mancavano poi i soldi. un po' di denari, sì. Però diciamo, il museo vi ha dato, no, delle monetine. Adesso entriamo. Cosa avete fatto? Abbiamo trovato parecchie difficoltà nello sviluppo della progettazione strutturale. In primo luogo, per determinare la spinta statica delle monete, perché chiaramente in letteratura, non esistendo dati di... Io mi sono segnata che conteneva 3 ettari cubici di dollari d'oro. Attenzione, che qui c'è Citrini, siamo un po' in disaccordo. Va bene, andiamo avanti. Sapete che di depositi ne esistono tantissime versioni. La versione che abbiamo scelto noi è quella di Don Rosa, per cui con una planimetria il volume è standardizzato. Quanto era? È un cubo di circa 30 metri riempito per circa 2/3, quindi va circa 20-25 mila metri cubi di monete. Monete d'oro grandi quanto? E purtroppo meno? In realtà non sono d'oro, le prime monete infatti non erano colorate di giallo, erano monete, il dime americano. Dime, certo. Americano. Sì, sì, sì. E anche un po' di biglietti c'erano, no? Sì, noi per facilità di ipotesi scientifiche l'abbiamo considerato tutto pieno tutto di monete, perché come dicevo avevamo la difficoltà di determinare la spinta delle monete, quindi servivano dei parametri, pesi equivalenti, angolo di attrito interni che non esistono. Per cui grazie al museo, che è intervenuto quasi subito, ci ha procurato un 5.000 monetine da 2 centesimi, che è la misura analoga, che secondo Wikipedia è la monetina più vicina, quella piccolina. Sì, chiedere 5.000 del 1800 agli Stati Uniti saremmo ancora ad aspettare. E avete visto quanto spingevano sulle pareti. Abbiamo fatto in aula le prove sperimentali, anche con una trattazione tutta statistica, come da normativa italiana del 2008, quindi agli stati limite, abbiamo ricavato valori caratteristici, valori medi e tutto, e abbiamo determinato la spinta sulle pareti. Poi mi è stato detto che il deposito era in uno stato immaginario del Calisota, e lì Sulle prime io dicevo, vabbè, non interessa, può essere in Lombardia, nel Calisotto, non lo so. Mi è stato fatto notare che coincide con l'Alta California, per cui poi il quindi anche con un clima infatti adesso fra un po' ci arriva, però dobbiamo andare rapidamente, non funziona. Certo, no? Che funziona come l'abbiamo progettato noi, però se ci date anche 100 milioni di euro ve lo costruiamo. Di cosa è fatto? Di acciaio. Tutto acciaio. Noi l'abbiamo progettato acciaio calcestruzzo. Però quello di Paperone non stava, non avrebbe tenuto. Quello di Paperone no. Il progetto a forma vasca normale non avrebbe tenuto. Abbiamo fatto dei predimensionamenti, ma se fatto in calcestruzzo armato avrebbe avuto pareti di almeno 10 metri e non ci sta, non è realizzabile. Devo tornare a Luca Bertuzzi. Luca, mi senti? Luca? Certo, sono qui. Al museo, eccolo qua. Allora qua. Luca, adesso dobbiamo molto rapidamente, perché poi è Claudio Citrini che ci dà la risposta, introdurre l'avventura dei Terrini e Fermini, che immagino tu ricordi. Cioè, a un certo momento Paperone vuole capire se il suo deposito è sicuro, no? E finisce, adesso lascio perdere i dettagli, ma con Paperino e i nipotini si ritrova qualche chilometro sotto il deposito. E incontra questi Terrini e Fermini, sono delle specie di palle, no? Degli oggetti, degli animali assolutamente simpatici con un nasone, si differenziano perché i Terrini hanno una cravatta a farfalla, mentre invece i Fermini hanno una cravatta normale. Il loro gioco in questa enorme caverna, dove ci sono dei pilastri alti un miglio, sono i Terrini che tengono, cercano di attaccare chi? I Fermini, che invece tengono solidi i piloni, e così generano i terremoti, no? Ci sono i Terrini che si precipitano contro, no, non è così, sì. Diciamo che nel Calisota la causa dei terremoti principali probabilmente sono queste due popolazioni sotterranee, anche se tra l'altro è senz'altro così anche adesso. Bisognerebbe andare in Calisotto a verificare. E poi in realtà le storie in cui il sottosuolo del deposito entra in gioco ce ne sono tantissime. Ad esempio, ce ne sono tante. Una storia natalizia in cui tutti i soldi del deposito di Paperone finiscono in una grotta sotterranea, a decine di metri sotto, in un altro. Gli sfuggono tutte le monetine, Luca, al centro della terra. Finiscono le monetine quasi al centro della terra, e l'unico modo per recuperarle è usare un piccolo trainino elettrico giocato, riporterà un mazzetto di monete per volta, e quindi ci vogliono ad esempio tipo 300 anni per riportare tutto quanto. Va bene, Luca, però anche in questa storia dei Terrini e Fermini i soldi finiscono tutti sotto, poi siccome i Fermini odiano il denaro glieli risbattono tutti sopra. E io qui vado a Claudio Citrini, il quale ha fatto i conti su questa possibile tragedia. Cosa ha fatto Citrini? Allora, io avevo supposto che i Bassotti, volendo rubare il deposito di zio Paperone, come è naturale che facciano, avessero fatto un bel buco dagli antipodi un bucone attraverso il centro della terra per arrivare sotto e portare via il deposito di zio Paperone. Allora, agli antipodi di Paperopoli in realtà c'è l'Oceano Indiano, perché hai visto dov'è, però loro sono bravi, si fanno questo buco e fanno precipitare giù si fanno quattro conti. Se si fa un modello matematico un po' semplice, cioè si suppone che la Terra sia omogenea, cioè abbia tutta la stessa densità, si riescono a fare dei conti facili che qualsiasi studente uno studente dice che sono facili. Io li ho fatti in tram, tanto per dire. Credo, professore. Adesso li ho fatti sul foglietto di carta, mi posso far vedere. Non si può dare agli studenti da fare. Ecco, un conto facile. Con la densità costante il conto è veramente facile, e viene fuori un periodo. Dunque, per arrivare al centro della Terra, secondo me, se non ho sbagliato i conti con i numeri, poi alla fine sono sicuro che la formula è giusta, vengono 21 minuti. E il deposito precipita al centro della Terra, negli altri 21 minuti arriva agli antipodi, e se i Bassotti non fanno in fretta a prenderlo, torna indietro, e negli altri 42 minuti zio Paperone è in grado di riprenderselo, e va avanti col moto armonico, perché passando dal centro l'accelerazione è proporzionale al raggio, se si fa questa ipotesi. Se non si fa questa ipotesi i conti diventano difficilissimi, però almeno in questo caso semplici. I modelli matematici sono spesso fatti così. Però bisogna che sia da là una parte che dalla, c'è un, ci sono due momenti in cui o lo prendono i Bassotti e o se lo no prendono avanti all'infinito, trascurando l'aria, trascurando il fatto che in mezzo c'è un po' di allora caldo, intanto salutiamo Luca che ci ascolta appunto dal museo e ricordiamo che fino al 27 settembre chiunque può andare a visitare e incontrare Zio Paperone nel suo deposito. Ringraziamo Luca Sgambi e Claudio Citrini, vi divertite al Politecnico e diamo la linea al traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Io credo che ormai tutti sappiano cosa sono i droni, non quelli da guerra, che quelli purtroppo li conosciamo probabilmente da più tempo, no, questi strani elicotteri, sì. Non sono solo elicotteri, veicoli insomma, telecomandati, veicoli non telecomandati so, abbastanza piccoli, così. No, che però stanno arrivando da tutte le parti. Oh, ben ritrovati qui a Expo, insomma, questa certo. puntata speciale di Mebius, certo. E diamo il saluto a altri due ospiti, oggi sì. siamo ricchissimi di ospiti, ci hanno raggiunto in studio Fabrizio De Fabrizis, che è CEO di Drone Italy, appunto. Ciao. Adesso. Buongiorno. Ciao, buongiorno. E parleremo con lui appunto dei droni e poi di un'applicazione molto particolare dei droni sì. in ambito di agricoltura. Essendo qua a Expo non possiamo non parlarne. Ci ha raggiunto anche Luciano Morigi. Ciao. Benvenuto, ciao. Fondatore di Italdrone, che è una startup emiliana, se non sbaglio, sì. di Ravenna, sì. che appunto applica i droni anche in ambito agricoltura. Allora, Drone Italy è un po' la manifestazione di riferimento sì. per la dronistica italiana. De Fabrizio, da cosa vogliamo incominciare? Da questi... Dalla definizione che forse non l'abbiamo data giù. Drone, sì, va bene, allora. Ce ne dia una rapida... Di questa parte. Veicoli a pilotaggio remoto. Veicoli, quindi pilotaggio. Veicoli okay. a pilotaggio remoto, veicoli senza pilota. Quindi questa è la definizione fondamentale. Quindi possono essere aerei, possono essere terrestri, possono essere marini. Certo. Naturalmente oggi quelli di cui ci occupiamo particolarmente sono quelli aerei. Quelli certo. aerei. Dimensioni medie? Ma le dimensioni medie, diciamo, di quelli che sono sul mercato, diciamo. Vanno da 30 da 20 centimetri a un metro di circonferenza mm-hmm. o comunque a un metro di apertura alare. Oggi ma ce ne sono di molto quelli... più grandi anche con un'apertura certo. alare più grandi, ma quelli non ne parliamo, noi parliamo di questi dei light, RPAS remote piloted. Quante eliche hanno più o meno? Bah, quelli professionali avere. Diciamo quelli professionali generalmente partono da 4 rotori, arrivano fino a 8-12 rotori in base anche al payload, alla parte che deve essere trasportata, quanto pesa. Eh già, certo. Parte un payload o prodotto. Che potrebbe venire fuori altre volte durante questa intervista. Voi usate questo gergale che è quello delle missioni spaziali, no? Cioè è il carico utile che deve svolgere una certa funzione. Voi dite se è più o meno pesante a seconda sì. dell'obiettivo. Ci vuole molto per imparare a guidare un drone? Diciamo che adesso le regole prevedono che chi deve pilotare un drone frequenti un corso con una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica deve durare almeno 33 ore e poi la parte pratica deve durare almeno 16 ore. Vabbè. E si deve proprio un brevetto. Beh sì, non chiamiamolo brevetto perché lo chiamiamo più attestato. Lo chiamiamo attestato, okay. perché non è un vero e proprio brevetto, però è un attestato che viene poi rilasciato alla scuola. Ecco, so che non è corretto magari parlare di costi o può essere un po' riduttivo, però per capire un drone professionale, non un drone giocattolo, quanto può costare? Beh, diciamo che per svolgere un'attività professionale si spende da un minimo di 1.500 euro fino a 40.000 euro. Naturalmente valuta a seconda poi della, appunto, dei sensori che monta. Certo. Ecco, perché la cosa importante non è tanto diciamo certo l'apparecchio, ma i sensori, la tecnologia che monta a bordo. E da lì deriva poi l'applicazione, l'uso certo. che se ne fa. Certo. Assolutamente, perché consideriamo sempre il drone come un vettore di carico, dove noi mettiamo sotto sensori e anche spargitore nel caso dell'agricoltura. Diciamo che si possono mettere l'uso più comune, quello della telecamera che vediamo in giro, che viene fatto per video, fotografie e quant'altro. Immagini aeree, insomma. Sì, esattamente. Ci sono altri sensori o altre cose da mettere al di sotto come spargitori e quindi aumentano anche la gamma di utilizzo. Diciamo. Certo, certo. E Fabrizis? C'è una grande querelle sulla legiferazione in merito ai droni, la regolamentazione. Mi pare che domani c'è un passaggio sì, fondamentale. Sì, domani il Consiglio di amministrazione di ENAC dovrebbe approvare la nuova versione del regolamento ENAC che disciplina questi mezzi, che essendo l'ENAC, che è l'Internazionale per l'Aviazione Civile, perfetto, sì. E che appunto, essendo mezzi che volano, sono equiparati a mezzi aerei, e per quanto riguarda, essendo sotto i 150 kg di peso, la regolamentazione viene fatta dai singoli paesi. In questo caso in Italia è stata fatta da ENAC. E non è vero che siamo così indietro come nazione, giusto? Assolutamente no, anzi, guardando anche, magari delle volte si guardano gli Stati Uniti come esempio di nazione molto avanti o di riferimento, in questo caso magari l'Italia è anche più avanti, forse anche di qualche anno, quindi questo è veramente singolare, cioè sia... questo è singolare e gradevole, perché ci dà motivo di sperare bene per il nostro futuro, ma anche perché i droni costruiti qui, quindi diciamo che molti droni vengono costruiti in Italia, quindi altri vengono anche dall'estero, si sono create delle vere e proprie filiere di, sì, ma la nostra industria dei droni non ha nulla da invidiare a quella di altri paesi, cioè, noi siamo comunque un paese manifatturiero, in questo caso anche abbiamo aziende con buona tecnologia, e sicuramente aziende che possono esportare questi prodotti, effettuare servizi all'estero. Beh, quindi direi che non... buono e positivo. Okay. Certo. Morigi, entriamo nel dettaglio, a cosa servono, che cosa ci facciamo? Beh, diciamo, per rimanere nel tema comunque, sì, del cibo, possiamo fare un excursus generale, cioè, poi entriamo nel dettaglio. Beh, allora, partendo dalla classica fotografia, che è quella che conosciamo tutti, usando sensori un po' più sofisticati come tetracamere e termocamere, si possono anche determinare lo stato di qualità della vita delle piante sopra i campi e arrivare fino allo spargimento di prodotti. Nel caso del progetto che stiamo portando avanti noi, si lavora nel bio, quindi lavoriamo con batteri antagonisti, nel caso nostro spargiamo del tricogramma, che è il batterio che combatte la piralide sul Gran Turco. Che cosa dà il drone che non danno altri macchinari? Ecco, perché sostanzialmente alla fine il famoso elicottero che girava sul campo, che differenza c'è? Ovviamente costa molto meno. Beh, questo certo, non è poco. È molto più selettivo, perché volando a pochi metri dal campo è quasi chirurgico nello spargere questi prodotti bio, che sono costosi e vanno gestiti un pochino con rispetto, con attenzione. Lei dice quasi chirurgici, perché qui entriamo nel settore dell'agricoltura di precisione, cioè riusciamo a capire nel campo il singolo metro quadro e anche forse in andiamo più sul centimetro quando facciamo delle rilevazioni sempre con il drone nell'agricoltura di precisione. Lo spargimento, diciamo, non rientra proprio nello specifico nell'agricoltura, nel nominativo agricoltura di precisione, però è un inizio, è una maniera per far entrare il drone, che dà molti vantaggi anche costistici, nel mondo dell'agricoltura. Sì. Abbiamo fatto, diciamo, l'anno scorso i primi esperimenti con i vari droni in giro per le campagne a fare un po' di spargimento di questi prodotti. Nel 2014 abbiamo fatto 200 ettari. Per provare, per vedere anche con i contadini come rispondevano. La cosa ha avuto un seguito, quest'anno stiamo lavorando su 2500 ettari. Quindi molto di più, 10 volte tanto. Esattamente, e rimane comunque una piccolissima parte ancora rispetto a tutto quello che c'è da fare in Italia. Quindi diciamo che la cosa sta funzionando, è sostenibile e dà lavoro ai ragazzi che se no sarebbero a spasso. Quello che forse dobbiamo specificare, Morigi, è che non si tratta solo di una sostituzione appunto in termini di costi, che è già importante, è che noi non ci siamo abituati, ma insomma c'è tanta tecnologia in agricoltura, ma in realtà quello che stiamo scoprendo è che era molto sommaria. Certo. Cioè un grande campo può essere visto come una collezione di tanti campi, e quindi i singoli sottoinsiemi possono essere produttivamente trattati in modo diverso. Sì, certo. Con i sistemi di una volta si andava a spargimento. Teniamo conto, quando parliamo di agricoltura, che ad esempio con i droni noi possiamo fare la misurazione della massa legnosa, cioè quando parliamo quindi di raccogliere il legno, possiamo con un drone capire quant'è la massa legnosa che è a disposizione, che poi andremo a raccogliere. Quindi non parliamo soltanto di campi, ma possiamo parlare, oltre al mais, possiamo parlare della vite, possiamo parlare del pomodoro, cioè possiamo parlare veramente di applicazioni che riguardano tutti i tipi di colture. Certo, venendo da un'agricoltura che era grossolana, insomma, rispetto a questa. Lavorando molto sull'ottimizzazione, questi sistemi che Italdrone propone, che altre ditte propongono, aumentano di tantissimo ottimizzando quello che magari già c'era e sfruttando le nuove tecnologie, algoritmi messi in piedi da ragazzi in Italia, quindi certo, da ricercatori italiani, per ottimizzare il raccolto. Certo, per capire appunto l'identità del campo, di quello che, di come è diversificato, c'è la prima fase, immagino, quella come dicevate voi, con le termocamere, con i sensori, certo, che banalizzando ci restituisce una mappatura, sì, del terreno. Fa un'aerofotogrammetria. Ecco, e che cosa vediamo per chi non lo avesse mai visto? Cioè è una specie di fotografia aerea tutta colorata, con tante masse colorate, e quello ci dà in qualche modo lo stato del raccolto, che la salute del fogliame, certo, il vigore della pianta. Il vigore della pianta. Sì, esattamente, che va letto, lo deve leggere un agronomo, una persona specializzata, ovvio, ovviamente, e dal di lì riesce a determinare anche lo stato dell'irrigazione. Facendo con termocamere si riesce a capire se l'irrigazione arriva dove deve arrivare, avendo questa grande fotografia dall'alto, uniforme o no? In maniera uniforme. Dobbiamo irrigare più una parte del campo, dobbiamo concimare più una parte del campo e non un'altra, quindi non il risparmio. Può capitare ad esempio che una parte sia scoscesa oppure in ombra oppure troppo al sole. Certo, certo. I riti sono sulle colline. Sentite come sta andando con gli agricoltori, è sempre più accettato o avete problemi? Diciamo che apposta questo discorso dello spargimento è stato anche intrapreso dalla mia azienda per sfondare, diciamo, il primo muro con i contadini, perché parlando di spargimento è molto più diretta la cosa. Allora, c'è una grande possibilità in Italia. In Italia le lavorazioni agricole vengono fatte dai controterzisti, cioè da aziende specializzate che mettono a disposizione le macchine. Secondo noi sono le aziende che possono dotarsi di droni e quindi inserire tra le loro macchine questi mezzi e fare anche questo tipo di servizi. Di questo faremo proprio un convegno specifico su questo a Drone Italy il 25 settembre. Ah, ok, quindi riprenderemo questo tema. Grazie davvero, tante cose. Grazie. Fabrizio De Fabrizis, grazie. Luciano Morigi, grazie. Noi ci dobbiamo fermare qualche secondo. Grazie a voi. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sai, Chiara, che sta per arrivare un cioccolatino che io poi lo tiro come, sì, un elastico, chic, te lo spiamma magari su una guancia e tu invece che dire ai dirai buono. In realtà gli ha fatto fare di tutto al cioccolato. Adesso diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Intanto ricordiamo che siamo in onda, siamo con una puntata speciale Expo qui a Cibus Italia. Allora diamo il benvenuto a Massimo Barbierato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Lei dirige il laboratorio di design del prodotto, e in questo caso il prodotto è il cioccolato, allo UAV nella sede di San Marino. Che cosa avete fatto fare ai ragazzi? Gli avete fatto studiare tutte delle applicazioni molto particolari sul cioccolato. Federico diceva una specie di fionda elastica al cioccolato, no, ed è così. Nel senso che hanno fatto delle cose cioccolatose in senso stretto, ma hanno utilizzato il cioccolato come se fosse invece un materiale assolutamente orizzontale che può finire in tante altre soluzioni, no? Sì, certo. E avete fatto un lavoro con gli studenti. Sì, abbiamo fatto un lavoro con gli studenti nel primo anno e abbiamo chiesto a loro di lavorare con la cioccolata, però spingendoli a dare un significato un po' diverso rispetto all'essere buona o visivamente solo bella. Non abbiamo cercato di formare maestri cioccolatai, ma giovani progettisti che in qualche modo devono anche ragionare sull'etica del progetto. Come prima cosa avrete fatto studiare tutte le proprietà del cioccolato, no? Sì, esattamente. Noi nella prima parte dell'anno abbiamo analizzato questo materiale commestibile meraviglioso da tutte le angolazioni possibili. Abbiamo studiato la sua meccanica, le sue metodologie di stampaggio, la sua chimica, la sua provenienza, il suo colore, il suo profumo, il suo suono, tutte cose che poi hanno state dei fondamenti per la seconda parte dell'anno. Allora, senti, siccome non vogliamo però, perdere... Barbierato, tutto possiamo dire tranne che sia elastico. Cosa avete fatto? Esatto, ci faccio un po' un elenco. Guardi, faccio un elenco veloce. Allora. Sono usciti 16 progetti completamente diversi. Alcuni hanno lavorato sulla psicologia del cioccolato, altri sul suono, altri sulle mutazioni superficiali, sul colore, sul discioglimento. Quella che avete citato è una tesi assolutamente sperimentale e che pensiamo di andare a brevettare, due ragazze, Chiara e Maria Eva, hanno inventato realmente un nuovo cioccolato elastico che ha delle caratteristiche a dir poco incredibili dal mio punto di vista. Questo cioccolato si può piegare, si può comprimere, può diventare addirittura un elastico, può rimbalzare quasi come una pallina da ping pong o addirittura essere gonfiato come un palloncino. Quindi una sorta di, possiamo immaginare una caramella gommosa che rimbalza. Ma, insomma, c'è un altro materiale che fa tutto questo, non lo sappiamo. Ma poi è commestibile? Certo, ce lo si può mangiare. Guardi, noi ne abbiamo mangiati a bizzeffe e non ci è capitato nulla, perciò posso garantire che è commestibile, assolutamente. Va bene, poi cosa avete inventato? Poi l'avete gonfiato, se non sbaglio. Pallone, l'abbiamo gonfiato, sì, assolutamente, funziona, lo garantisco. C'è che, no, ci spieghi però, scusi, ha fatto una palla vuota all'interno e all'esterno con un sottile strato. Lei si immagini un palloncino in gomma, ecco, sì. Quello è stato fatto in cioccolato e poi è stato gonfiato, sgonfiato e poi mangiato. Di Barbierato diventerà miliardario per la felicità di non io, le ragazze. Poi, c'è altro. Sì, hanno lavorato sul profumo. Il profumo del cioccolato è fondamentale perché il cioccolato produce endorfina, certo. E perciò dà buon umore, rende felici. Hanno trasportato il profumo del cioccolato in piccoli progetti che si possono mettere in tasca, nella borsa, essere applicati sui vestiti, sulle cartoline, adesivi addirittura che possono essere incollati su pagine di libri per rimarcare un'emozione di una frase. Immaginatevi di essere in fila al supermercato o in autobus assolutamente affollati. Allora lì estrarrete il vostro piccolo ventaglio al profumo di cioccolata bianca. Cioè mi sventolo e distribuisco cioccolato intorno a me. Sì, diciamo, cambia, almeno influenza positivamente il suo umore. Se invece bello, volete, bello. Se invece vorreste scrivere un biglietto d'addio a una persona che odiate, ti odio, ti lascio, allora quel biglietto ci sarà una fragranza di cioccolata amara con un 99% di cacao, che è quasi simbolica. Quindi anche a seconda di come, dello stato d'animo in cui ci si trova. Interessante. Assolutamente. Però sono venuti fuori altri progetti che dobbiamo descrivere. Assolutamente. Poi alcuni hanno lavorato sulla forma, hanno dato forma a degli stati d'animo dell'uomo. Un gruppo, Giada e Mattia, hanno tentato di dare una forma alla rabbia tramite un cioccolatino, allo stress, alla noia, alla stanchezza, alla tranquillità, alla felicità o all'euforia, e hanno messo tutto all'interno di un bellissimo packaging. Perciò il lunedì mattina io personalmente sarei portato a mangiare il cioccolatino della rabbia, e quello mi aiuterà in qualche modo ad affrontare quella sensazione. Scusi, com'è composto il cioccolatino del lunedì mattina della rabbia? Il cioccolatino della rabbia è composto con una superficie verticale, è un cioccolato assolutamente dolce ed è molto, si può rompere con i denti in maniera assolutamente facile, proprio per appagare senso di rabbia e con questo gesto. Barbierato, abbiamo un minuto perché lei ci deve parlare dei giochi erotici. È venuto fuori anche questo. Poteva mancare. Sì, certo. Allora vi descrivo ancora soltanto, prima di quello, un progetto sul suono. Enrico e Beatrice sono partiti da uno studio effettuato all'Università di Oxford. Cioè, il suono e la forma possono veramente influenzare la percezione del gusto degli alimenti. Perciò cosa hanno fatto? Hanno cominciato a progettare delle forme di due piccoli cioccolatini, hanno cominciato a romperli, a capire il suono e la frequenza della rottura. Poi hanno ideato due forme, le hanno fatte con lo stesso cioccolato. Vi posso garantire che assaggiandone una sembra più dolce, assaggiando l'altra sembra assolutamente più amara. Perché la forma è differente. Certo. La forma e il suono della rottura che si genera con le mani o con i denti. È stata veramente un'esperienza incredibile. Questa. Proprio perché non mangiamo solo con la bocca, insomma, col gusto. Va bene, ha qualche secondo per dirci, insomma, il cioccolato hot. È il cioccolato hot. Anna e Jasmine hanno pensato di progettare sei piccole forme. Come? Due femmine. Sì, due ragazze. Sì. Il corso quest'anno era fatto quasi esclusivamente di ragazze. Non è andata così. E cosa hanno progettato? hanno progettato 6 piccole forme in cioccolato per l'intimità di coppia. Sono progetti veramente molto discreti, che lavorano sull'aspetto ovviamente sensoriale del cioccolato. Perciò con questi sei, con queste 6 forme si potrà disegnare sul corpo del proprio partner, si potranno usare una sorta di timbri per generare del texture sul corpo, si potranno posizionare alcune forme di cioccolato sulle concavità. Sì, e qui adesso, certo che è chiaro adesso qual è, cioè ci aggiungiamo il gusto del cioccolato, no? Sì. In certi, certo. Ma senta, non possiamo andare oltre, è abbastanza chiara la cosa, no? Però Barbierato, c'è la possibilità di vederli questi lavori da qualche parte? Sono online? Io ve li invierò sicuramente. Stiamo li mettiamo sul blog. Allora, ricordiamoci, lunedì mattina sarà tutto su www.radio24.it. Guardi, dovreste darci un po' di qualche giorno. Va bene, vediamo un po' più di tempo. Va bene. Grazie Barbierato, buon lavoro allora. Io vi ringrazio e se me lo permettete vorrei anche ringraziare l'Università di San Marino perché... Come no, e i ragazzi anche. E i ragazzi ovviamente, ma sì, non è facile trovare un'università in cui... si possono fare queste cose. Grazie. Buon lavoro. Laura Badalucco. E tra l'altro rimaniamo nella stessa università perché andiamo allo IUVA, questa volta allo IUVA nella sede principale di Venezia con Laura Badalucco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentrovata. Allora, lei ha, diciamo, ci siamo sentiti per la trasmissione e il tema di fondo è lo spreco e ci sono tre progettualità molto interessanti sulle quali voi state lavorando. Possiamo vederle tutte e tre? Anche lei è docente di disegno industriale, no? Certo. Allora, sì, esattamente. Io sono il direttore del corso di laurea in disegno industriale dell'Università di Venezia e nella nostra università lavoriamo già da diversi anni il sistema dell'alimentazione e della, diciamo, responsabilità e della consapevolezza collegata all'alimentazione, immaginando, ragionando sul tema del contributo che il design può dare dalla terra alla tavola, diciamo, in tutti i suoi aspetti. Ecco. E in questo caso negli anni abbiamo fatto diverse esperienze, in particolare sui prodotti ortofrutticoli del territorio veneto. Sapete che il Veneto ha dei prodotti meravigliosi, dal carciofo violetto di Sant'Erasmo al peperone zero branco che è famoso nel mondo. Ma ci deve raccontare le vostre ricerche. Il radicchio, per esempio, è una sulla quale avete lavorato, no? Esatto. Allora, abbiamo fatto una serie di lavori sia per quanto riguarda l'istruzione e la consapevolezza sul prodotto del territorio e abbiamo sviluppato una serie di lavori e di infografiche, di manifesti che promuovessero sia il decalogo sul risparmio di Coldiretti, sia la conoscenza dei prodotti del territorio. Questi lavori svolti con designer come Gigi Pascolder o Francesco Messina sono piaciuti talmente tanto che Coldiretti ci ha chiesto e il territorio ci ha chiesto di presentarli in una mostra che poi ha ottenuto un prestigiosissimo premio internazionale su Information Design. In particolare design. Voi come università avete studiato una cosa molto particolare che le chiederemo di raccontarci, una protesi un po' particolare. Per il radicchio. Allora, esatto, oltre ai prodotti di design della comunicazione abbiamo fatto tutta una serie di lavori sul design del prodotto proprio, per cui studiando e andando a lavorare con gli agricoltori, in particolare quelli che si occupano della coltivazione molto particolare del radicchio, e per loro abbiamo studiato una serie di aiuti, ausili. Cioè è venuto fuori che loro sforzassero un po' troppo il pollice nella pulizia del radicchio, è così? Esattamente, e allora sforzano molto molto molto le mani, hanno una postura, ad esempio quando usano il sarchiatore hanno una postura molto curva in avanti, per cui abbiamo sviluppato guanti o sistemi che permettessero di aiutare il coltivatore nella pulizia del radicchio e nella gestione di tutti gli aspetti di coltivazione. Abbiamo riprogettato con loro anche un sarchiatore, per cui un oggetto che serve proprio per lavorare la terra, per, sì, per permettere al radicchio di dare il massimo della sua qualità. Perché l'affaticamento produce spreco, no? Cioè io lavoro male, sì, e quindi... E qui c'è tutto un efficientamento. Però ci interessava anche una cosa molto diversa, molto più culturale, che è il famoso doggy bag che si porta via al ristorante. Noi ancora non siamo molto abituati in Italia, ci vergogniamo ancora un po'. Cosa avete studiato? Esatto, lì? In realtà quello delle doggy bag è un lavoro che è stato fatto da Comieco con Slow Food Italia e con la supervisione di Michele De Lucchi e Andrea Kerbacher. Sì. Questi lavori sono lavori che hanno richiesto, in realtà non sono lavori dell'Università di Venezia, ma è proprio Comieco che ha smosso una serie di designer con i quali ovviamente anche noi lavoriamo, ma ci mancherebbe, tipo Giulio Iacchetti, Matteo Orani. Sì, ma Matalucco ci deve dire che cosa, perché il tempo vola, siamo in diretta. Questi designer e degli illustratori hanno progettato una serie di confezioni di altissima qualità, illustrate da illustratori come Guido Scarabottolo, che invitano le persone a portarsi a casa gli avanzi del proprio cibo al ristorante, perché uno dei problemi collegati allo spreco di cibo è proprio quello che noi produciamo andando al ristorante e lasciando ciò che più non ci aggrada. Cioè, siccome avete fatto delle doggy bag molto belle, la gente è incentivata ad averle. Sì. Molto belle, fa proprio piacere portarsele a casa. Esatto, al posto di quel sacco del ciotolino di alluminio che sembra un po' molto riduttivo. Esattamente, per cui sono veramente molto interessanti. Oh, va bene, grazie Badalucco, davvero buon lavoro e ci risentiremo magari per raccontare qualche altra tecnologia e qualche altro disegno che avete studiato per le soluzioni legate all'alimentazione. E noi andiamo al traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E concludiamo andando nello spazio con un testo che però sembrerebbe richiamare a Expo l'alimentazione. Lo lasciamo come sorpresa alla fine. Il titolo è Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte, edito da Mondadori Università. Bello, bellissimo titolo. E qui con noi è uno dei due autori, Giovanni Bignami, e l'altro autore è Andrea Sommariva, che è un economista. Allora, Giovanni Bignami, benvenuto. Bentrovato. Presidente dell'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Però venendo da esperienze, direzioni di agenzie spaziali, poi insomma ti diamo un po' del tu, perché sei entrato pesantemente negli ultimi anni nella divulgazione, nella scrittura di articoli molto belli. Questo libro, adesso lascerò poi a Chiara il problema asparagi, lo risolviamo, perché parlando di spazio e di asparagi sembra impossibile, anche se coerente con Expo. Allora, questo libro è un bel saggio di economia spaziale, insomma. C'è una prima parte molto interessante che in una ventina di pagine, forse qualcosa in più, fa anche una storia di tutto ciò che sono state le missioni spaziali. È una bella sintesi e serve per capire bene quello che dici dopo. Però la sostanza del testo è: guardiamo al presente, guardiamo soprattutto al futuro e ragioniamo in termini economici su quello che ci può dare la ricerca spaziale. Non pretendiamo adesso di fare la sintesi del libro, ti abbiamo messo giù un po' di domande. Ce n'è una prima che ci interessa, perché può sembrare molto anomala. Il bilancio che tu fai di tutta la stazione spaziale, insomma, è un bilancio un po' modesto, no? Tu dici che per certe cose è buona, ma insomma, forse anche un po' finita la sua mission. La mission era squisitamente politica all'inizio, era Reagan per distruggere lo Evil Empire, e dopodiché si è ridotti a dire: vediamo cosa succede in assenza di gravità, il caffè in assenza di gravità, no? È una cosa affascinante. Ecco, lo dici con una faccia che uno... No, è come dire, c'è i suoi limiti scientifici, però perché c'è anche una tazzina speciale per bere il caffè in assenza di gravità, un grave difetto che al manico a destra. E non sono previsti astronauti mancini, oppure senza gravità si mettono a testa in giù. Però insomma, tu dici che la stazione spaziale adesso, insomma, è meglio non pensarci più ad altre stazioni spaziali. Voglio dire, è stata fondamentale per insegnarci a lavorare tutti insieme, per l'Italia, per sviluppare delle tecnologie grandemente innovative che sono state fatte, d'accordo. Non parliamo di scienza. Non parliamo di scienza. No. Questo è una cosa. Parliamo di robotica, nel senso che tanto si è parlato appunto di macchine, di robot portati e impiegati nello spazio, però tanto forse dobbiamo pensare anche in direzione umana, non è forse la direzione corretta pensare solo alla macchina, al robot. Ci è sembrato un po' critico a quella tendenza che a un certo momento c'è stata, giusto, dicendo basta umani, ormai con i robot facciamo tutto. No, questa è una scemata pazzesca. È una scemata. Nel senso che per scrivere la Divina Commedia un robot non ce la fa, allora ci sono delle cose che gli umani sono più bravi dei robot a fare, ci sono moltissime che i robot sono più bravi o meno costosi eccetera, ci sono delle altre in cui l'occhio dell'uomo, cioè a me piacerebbe molto avere un vero geologo, un vero biologo sulla superficie di Marte che si guarda un attimo in giro e annusa e capisce e quello per ora nessun robot è capace di fare, nessun robot è capace di fare. Quindi la componente umana è una componente che dobbiamo recuperare in missioni anche abbastanza più complicate che andare sulla Luna, no? Però sono una sfida meravigliosa. Però sono una sfida, meravigliosa che ci daranno tecnologia di tutti i tipi che poi usiamo tutti i giorni. Tu usi il telefonino che fa le fotografie con dentro il CCD, quelle robe lì sono state sviluppate nella ricerca spaziale. Di questo abbiamo parlato spesso, Mebius, di quanta tecnologia ci sia sulla Terra che deriva certamente dalla ricerca spaziale. Non bisogna restare attaccati immediatamente all'impresa in sé, perché queste sono quelle imprese che hanno un'intera pioggia. È una ricaduta che va avanti per molto tempo, che avviene dopo molti anni, ma insomma è da lì che si passa. A un certo momento nel tuo libro si apre una pagina e c'è una roba effettivamente affascinante, e cioè si potrebbero prendere degli asteroidi, e ne abbiamo un sacco nel nostro sistema, di tutte le dimensioni, tu fai anche una tabella con le dimensioni, da 200 metri a 20 chilometri. Si potrebbe prendere qualcheduno di questi, portarlo più vicino a noi e metterlo per esempio in orbita alla Luna. Vicino alla Luna, Per fare che cosa e poi anche come si fa a fare una roba così? Allora, catturarlo, la NASA c'ha già tutto un accrocco che è, questa è una roba robotica. Si va con un'astronave robotica vicino all'asteroide, si vola informazioni, quando sei vicino tiri fuori una roba che sembra una via di mezzo tra acchiappa farfalle e dei mutandoni. Metti intorno all'asteroide, tiri una cordetta e poi riparti col motore, pian pianino trascini l'asteroide. Ma sembra una scemata, ma è vero, funziona, e arriva vicino alla Luna e lì stai lì tranquillo a aspettare. Dalla Terra partono gli astronauti col picozzino, arrivano lì, tic tic tic, e guardano, loro capiscono, fanno le foto e dentro l'asteroide, in un asteroide sferico di 20 metri che sono 10.000 tonnellate di materiale ferroso, c'è dentro per esempio minerali del gruppo del platino o le terre rare che da soli ripagherebbero completamente il costo della missione. Per esempio, quindi... tu citi le terre rare che sono qualcosa molto utilizzato in elettronica, ma ormai hanno un problema anche di tipo politico, perché sono concentrati in pochi paesi. Con un asteroide ci sarebbe qualcosa di più democratico, di più democratico dipende da come lo fai, cioè, è come la corsa all'oro in Klondike, il primo che arriva mette giù i paletti, sarà anche un problema legale divertente che fra l'altro tu affronti. Però scusa, a quel punto noi in cielo avremo anche quell'asteroide lì, rifletterà, sarà una piccola luna. No, è piccolino, è 20 metri, 30 grandi, metri, trascurabili. Non prendiamo quelli più grossi. No, quelli più grossi sono difficili, anche molto perché non vuoi portarli troppo vicino alla Terra, quelli grossi. Se qualcosa sbaglia, non vogliamo correre rischi. Allora, parliamo della sfida delle sfide. La sfida prossima è l'andare su Marte, insomma, in qualche modo la missione. E lì abbiamo scoperto dal suo libro che gli asparagi crescerebbero bene. Adesso tra un po' sapete che sta per uscire questo film con Matt Damon, il marziano, no? Sì. Il quale coltiva le patate su Marte, perché ne aveva portate due o tre per il tacchino di Thanksgiving, poi lui rimane lì da solo, e le patate non crescono perché il terreno di Marte è troppo sterile. Lui lo concima con la sua cacca e riesce a far crescere le patate, che ha un gusto delizioso. Concime. Perfetto. Allora, allo stesso modo, quando avremo una bella serra su Marte, noi abitiamo lì, la cosa migliore da far crescere, questo ancora viene dalla NASA, sono gli asparagi, che amano le sabbie rosse, ferrose, sono bei saporiti, e vengono su benone, e poi in assenza di gravità vengono degli asparagioni lunghissimi, come il mais, praticamente. Sì. Ma senti, però, per gli asparagi tipicamente bisogna mettere le uova, ci vogliono anche delle galline con delle uova più grosse. Proviamo. Ci sta anche un pollaio giusto nella sera. Nel prossimo volume si occuperà anche di questo. Hai ragione, adesso cioè, ci pensi per un appendice. Ma questa cosa però, che è in una condizione di gravità più facile, sì, no, praticamente, chissà, per crescere, possano venire fuori dei prodotti anche più grandi, questa è una cosa che probabilmente andrebbe studiata. Certo, Marte sarebbe il paradiso degli architetti, no? Le colonne del Partenone, che a noi sembrano basse e grasse, lì boom, potrebbero essere slanciatissime, certo, con la gravità, che è un teatro delle cose stupende. Fantastico, va bene. Ringraziamo davvero Giovanni Bignami anche per esserci venuto a trovare qui ad Expo, al padiglione Cibus Italia. Federico, dobbiamo salutare tutti e ricordiamo il titolo del libro. Oro dagli asteroidi asparagi da Marte, l'ha scritto Giovanni Bignami e Andrea Sommariva, che è un economista, edito da Mondadori Università, che è una collana diretta dal nostro amico Armando Massarenti di Noi. Grazie Federico, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche live. Ciao a tutti. A tutti.